chissà se adesso guardi verso il cielo, se vedi tutto quello che io vedo. La melodia che sto cantando piano è come una carezza da lontano. Sapessi interpretare i tuoi silenzi, capire dal tuo sguardo cosa pensi. Hai una vita ancora per guardarti negli occhi, per restare te stesso, per trovarti diverso. Una vita sola, se l'amore che arriva è come un treno che passa, siamo quello che basta. È come se sentissi addosso le sue mani, quei timidi sospiri respirati. Non c'è nessun domani nel presente, ma è come se il passato fosse assente. Si può restare senza una promessa. L'amore è indescrivibile bellezza. Hai una vita ancora per guardarti negli occhi, per restare te stesso e sentirti diverso. Una vita sola, se l'amore che arriva è come un treno che passa, siamo quello che basta. L'amore è tutto quello che mi basta. L'amore è tutto quello che ti basta. L'amore è l'unica certezza. È una vita ancora. È una vita ancora. Una vita ancora per guardarti negli occhi, per restare te stesso, per trovarti diverso. Una vita sola, se l'amore che arriva è come un treno che passa, sono quello che sono, siamo quello che basta. Chissà se adesso guardi verso il cielo.